Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti Estate, voci dalla nuova emigrazione. Prima puntata di agosto per la versione estiva del nostro programma che oggi vi porterà nel mondo dell'espatrio, diciamo pure artistico. Alzate dunque il volume delle vostre radio o delle vostre casse, se magari ci state ascoltando via internet dall'estero, perché oggi la parola d'ordine è Parigi. È questa la città di approdo, forse definitivo, ma chi lo può dire in quest'era di globalizzazione, per i due giovani che vi faremo conoscere oggi. Cominceremo raccontandovi la storia di un pianista emigrato in Francia per potersi affermare professionalmente. Già, perché come abbiamo scoperto, il mondo della musica è un settore straordinariamente difficile per i giovani artisti di talento. Sono certo che in Italia, nonostante le mie qualità, non avrei potuto vincere alcun concorso senza la classica raccomandazione, ci ha scritto Andrea, pianista trentenne di Milano, che andremo tra poco a conoscere, il quale proprio senza raccomandazione ha ottenuto un lavoro al corpo di ballo dell'Opéra di Parigi. Nella seconda parte del programma resteremo sotto la Tour Eiffel per parlarvi della storia di Luca. La sua professione è molto interessante, pensate che lavora come documentarista godendo di sussidi inimmaginabili per lui in Italia. E la prima storia di Giovani Talenti ci porta oggi oltre Alpe per raccontarvi la vicenda dell'esecutore di questa fuga in do minore di Johann Sebastian Bach. Sentiamo subito di chi parliamo. Nome. Andrea. Cognome. Turra. Età. 30 anni. Città di origine. Milano. Studi. Conservatorio di Milano. Anno in cui hai lasciato l'Italia. 2006. Per andare dove? Francia. Perché? Per dare un futuro alla mia vita. Quale lavoro svolgi attualmente? Accompagno il balletto dell'Opera di Parigi. E dove lo svolgi? A Parigi. Tornerai in Italia? No, perché? Allora, quella che avete ascoltato era la presentazione della storia di Andrea Turra, un giovane pianista milanese che vince un concorso per il corpo di ballo dell'Opéra di Parigi. Andrea, com'è possibile che tu sia dovuto emigrare per affermarti? Te lo chiedo perché ritengo personalmente strano che l'Italia, la culla mondiale dell'arte, finisca poi col disperdere centinaia di talenti musicali all'estero. Perché in Italia il mondo della musica, oggi come oggi, è un mercato molto ristretto. Tante orchestre chiudono, i teatri fanno molta fatica ad assumere, quindi oggi come oggi è molto difficile in Italia fare della musica la propria professione. Partiamo coi tuoi studi, cosa hai fatto? Ho cominciato privatamente, ho proseguito in una scuola di musica e mi sono infine iscritto, quando ho deciso di fare della musica la mia professione, al Conservatorio di Milano. Immagino che la musica sia stata sempre un po' una tua passione, come molti dei tuoi colleghi. La musica deve essere una passione, perché richiede talmente tanto impegno e tanto sforzo che se non lo si fa con piacere diventa veramente molto faticoso. Tu fai tutto il tuo corso sonorum, tutto il tuo percorso di studi al Conservatorio di Milano, ti diplomi con lode, a quel punto cosa accade? A quel punto continuo, diciamo, la mia attività, nel senso che quando studiamo noi musicisti facciamo concerti, quindi proseguo questa attività di concertista, cerco lavoro come insegnante, insomma con scarsi risultati, nel senso che nei conservatori è molto difficile entrare a insegnare e il lavoro di concertista è qualcosa di molto molto difficile da svolgere in Italia, perché le società pagano con molti mesi di ritardo, insomma si riduce un po' a dover rincorrere i cachet fatti e che ancora non sono stati pagati. Quindi diciamo tu prendi in considerazione un ventaglio di ipotesi, come fanno molti tuoi colleghi del resto, sì. E piano piano ti trovi a vedere che molte porte in realtà sono sbarrate. Sì, esattamente. Ma perché diciamo c'è una selezione eccessiva o perché non ci sono di fatto opportunità? Le opportunità sono poche e soprattutto i pochi posti che ci sono bisogna giocarseli attraverso conoscenze spesso e non attraverso i reali meriti. Insomma, non c'è, come dire, un canale selettivo, preciso, meritocratico e trasparente che se uno, diciamo, ha una bravura, una competenza, ha anche un buon voto di diploma in conservatorio, può percorrere con la certezza più o meno ragionevole di riuscire a trovare un buon lavoro. Esattamente, tanto che quando sono venuto qui in Francia sono rimasto colpito della pulizia, diciamo, che c'è nei concorsi, del fatto che... Ci arriviamo, Andrea, alla Francia. Prima però ti chiedo se hai qualche aneddoto sui tentativi che hai fatto in Italia, qualcosa che in qualche modo ci può far capire cos'è l'Italia oggi per un giovane artista? Ma l'Italia oggi per un giovane artista, come ti ho detto, è un paese dove quando svolgi un concerto il contratto che ti fanno prevede delle clausole dove sono liberi di pagarti nei 9 o 12 mesi successivi alla data del concerto, dove non potendo insegnare in conservatorio sei costretto a insegnare per delle associazioni che pagano a ore, quindi non sei messo lì pagato al mese, e che appunto pagano una parte regolarmente dichiarandole e una parte in nero. Questa è la situazione a cui mi sono dovuto. Questa è l'Italia per un giovane pianista. E sì. Quando e perché decidi di lasciare invece questo paese? Ma decido di lasciare il paese perché è una storia un po' lunga, insomma, ho conosciuto la mia compagna in Giappone, ci siamo visti il primo anno tra Londra e Milano e poi abbiamo deciso di vivere insieme, quindi ci eravamo dati un po' un ultimatum, nel senso volevamo provare 6 mesi in Italia e 6 mesi in Francia, e i 6 mesi in Francia hanno avuto, diciamo, la meglio. Perché hanno avuto la meglio? Cosa accade? Cioè tu provi a cercare lavoro in Francia e scopri all'improvviso, anche se vogliamo, un altro mondo, però facci capire quanto è diverso questo mondo. Il mondo è diverso nel senso che in Francia per esempio i conservatori sono liberi di assumere chi vogliono, nel senso fanno un concorso pubblico e in base al risultato di questo concorso si è selezionati. Io quando sono arrivato in Francia ho trovato uno di questi concorsi, ho partecipato, non conoscevo nessuno e hanno ritenuto che in base alla mia abilità potessi prendere quel posto e mi hanno dato questa fiducia pur non avendo avuto nessuno contatto prima e non conoscendomi. Sì, questa è la cosa che mi ha colpito. È singolare, no, questa espressione che usi, vorrei proprio portare l'attenzione, non conoscevo nessuno. Siamo molto abituati culturalmente in Italia a sentire conosco qualcuno, non conosco qualcuno. Tu dici non conoscevo nessuno e anzi tu mi hai scritto in un'email non conoscevo nessuno né del teatro né della commissione che mi ha giudicato, mentre poi aggiungi in Italia non avrei potuto vincere alcun concorso senza la classica raccomandazione. È veramente così? Sì, è un po' così l'Italia, nel senso che se effettivamente prima non hai fatto la cosiddetta gavetta, cioè hai conosciuto un po' l'ambiente, le persone hanno visto che tu puoi lavorare, semplicemente hanno visto che puoi essere, diciamo tra virgolette, un amico, qualcuno che conoscono, a quel punto hai molte maggiori chance di avere il posto che una persona qualsiasi che ha uguali meriti o maggiori. La tua storia è anche un po' più composita, perché dopo esserti trasferito in Francia ottieni un posto come pianista accompagnatore della danza al Conservatorio di Caen in Normandia e poi vinci questo concorso che, se non vado errato, è a tempo indeterminato, con un contratto a tempo indeterminato, sì. All'Opera di Parigi. Cosa fai esattamente adesso? Adesso mi occupo di fare la musica per le coreografie prima che vadano in scena con l'orchestra, nel senso che ovviamente le prove preliminari del balletto, in cui vanno molto nei dettagli, non vengono provate con l'orchestra, farebbe perdere troppo tempo, e quindi vanno prima regolate coi pianisti. Andrea, ci sono molti giovani come te, giovani compositori, giovani pianisti, insomma giovani che si occupano della cosiddetta cultura alta, che vivono in Francia. Sì, ci sono tanti miei colleghi, ma anche di altre discipline. Io per esempio ho ricontattato dei compagni del liceo e ho avuto appunto la sorpresa di scoprire che tanti sono emigrati all'estero, sono partiti in Cina, Giappone, Stati Uniti, Europa. Quando dici tanti, diciamo la maggioranza? Forse non la maggioranza, però insomma una larga parte. E più o meno condividete tutti questa analisi che hai fatto tu, cioè alla fine si parte semplicemente perché qui di possibilità, se uno è bravo, competente, ce ne sono pochine. Sì, diciamo che sì. Andrea, un'ultima cosa, come vedi ora l'Italia però dall'estero? Cos'è che non va? Cosa cambieresti? Cioè io dico e sostengo spesso che l'italiano all'estero ha una visione forse un po' più lucida del paese, la tua qual è? Fatto, come dire, di disabituarsi ai vizi dell'Italia ci porta effettivamente ad avere una visione più lucida. Io quello che vedo è una mentalità che, diciamo, non porta, soprattutto verso i giovani, non porta ad un reale aiuto, nel senso che in Italia vedo che i giovani, prima di essere introdotti in una professione vera, ad avere un vero inserimento nel lavoro, devono arrivare almeno a 40-45 anni. e questo insomma li porta un po' a non maturare in quel modo in cui magari fanno tanti giovani all'estero che hanno una reale indipendenza già da 25-30 anni. Diciamo che qui la gavetta è un po' indefinita e forse allungata artificialmente, non forse sempre e solo per colpa dei cosiddetti bamboccioni, come poi li si è anche secondo me ingiustamente etichettati, ma in un flash cosa cambieresti? Cercherei di fare, non so, delle leggi, qualcosa dal punto di vista politico che permetta ai giovani di trovare lavoro, di poter costruire la propria indipendenza, di poter costruire la propria indipendenza e riuscire ad affermarsi forse un po' prima professionalmente. Sì, esattamente, riuscire ad affermarsi professionalmente prima, sì, avere una bella carriera lavorativa già da 25-30 anni, come succedeva un po' all'epoca dei miei genitori. E prima di proseguire con il viaggio nel mondo dei nostri giovani espatriati, apriamo uno spazio ai migranti dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi vi riproponiamo un'inchiesta di Giovani Talenti nella quale abbiamo provato a rispondere a una semplice domanda: quanti under 40 lasciano l'Italia ogni anno o comunque nell'arco di un decennio? È davvero incredibile che non esistano dati certi, aggregati e analitici su un fenomeno ormai sulla bocca di tutti. Abbiamo dunque chiesto lumi all'anagrafe italiani residenti all'estero, ma per cominciare abbiamo girato ad Emma Vinci Orlando, viceprefetto e responsabile dell'AIRE, la seguente domanda: quanti sono gli italiani residenti all'estero? 3.998.139, questo è il totale, ripartito poi in Europa per 2.218.527, in America Meridionale 1.187.972, in America Settentrionale Centrale 374.357, in Africa, Asia, Oceania e Antartide, perché abbiamo anche degli italiani in Antartide, 214.876. Quindi l'Europa la fa sostanzialmente da padrone in questo quadro di immigrazione. Esatto. Dove si sommano anche un po' di ere geologiche, se vogliamo, dell'emigrazione. Certo, della nostra emigrazione. Ecco, su quello cosa ci può dire? Il totale degli iscritti under 40, io le posso dire, il totale degli iscritti è 1.896 sparsi per tutto il mondo, diciamo 997. Poi abbiamo fatto uno screening ulteriore che ci ha dato un subtotale di iscritti dai 20 anni ai 40, che sono 1.147.492. Poi c'è una statistica dal 2000 al 2010, cioè gli ultimi 10 anni, i nuovi iscritti all'AIRE di età fra i 20 e i 40 anni sono 316.572. Ci sono quelli che erano già iscritti, quelli che sono nati all'estero, iscritti all'AIRE per nascita, 191.622 dal 90 al 99, poi dal 2000 al 2010 333.495 più, diciamo, gli emigrati dal 90 al 99, 305.803. Quindi quel totale che lei ha di 1.147.492 vede solo, diciamo, flusso ulteriore di emigrati di 316.572 degli ultimi 10 anni. Quindi è un flusso abbastanza consistente, mi pare di capire, quello dei giovani che espatriano. Io le ho dato il dato, non commento adesso. Ecco, ma sì. Dottoressa, la statistica dell'AIRE è onnicomprensiva al 100%? È certa ed è attuale, diciamo, è sicuramente anche attuale. Perché è obbligatorio iscriversi all'AIRE, però magari c'è anche chi non lo fa. È un obbligo, ci sono alcuni che non si iscrivono, comunque diciamo che è un obbligo, perché il cittadino che va all'estero, quando è sicuro di stare più di un anno, ovviamente non parliamo di quelli che vanno per un periodo inferiore all'anno, è obbligato, secondo la legge 470, a iscriversi entro i 90 giorni, può iscriversi anche oltre i 90 giorni comunque, rendendo i suoi dati anagrafici all'ufficio consolare, e viene iscritto attraverso un modello. È difficile dire quanti eventualmente non si iscrivono per scelta, nonostante l'obbligo. Scelta, comunque l'obbligo di legge esiste, alcuni lo ignorano, non sono ben informati, vanno credendo di stare un periodo inferiore all'anno, a volte sì, può succedere anche questo, comunque è un obbligo di legge, questo è assodato. Parliamo dell'AIRE, allora cos'è l'AIRE? Spieghiamolo anche a chi non lo sa, e diritti e doveri che derivano dall'iscrizione. L'AIRE è proprio un'anagrafe della popolazione italiana che risiede all'estero, è stata istituita nel 90, contiene tutti i dati dei cittadini che hanno dichiarato di stare all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi. mesi. I comuni sono quelli competenti alla tenuta dell'anagrafe, esistono schedari ovviamente anche presso i consolati. L'esercizio del voto è stato effettivamente il primo motivo anche per istituire questa anagrafe, perché i cittadini che residono all'estero hanno diritto a esercitare il voto in tutte le consultazioni elettorali. Per iscriversi bisogna compilare un modello che viene consegnato dal consolato, che si chiama Consuno, in cui ci sono tutti i dati. Maggiori informazioni sull'area www.serviziidemografici.interno.it. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Parigi è la città che lega a filo doppio le storie di questa puntata. Dopo aver ascoltato il racconto del pianista Andrea Turra, è ora il momento di raccontarvi la vicenda di Luca Bergamaschi, documentarista di 34 anni, anche lui lombardo. È nato infatti a Cremona. Nome: Luca. Cognome: Bergamaschi. Età: 34. Città di origine: Cremona. Studi: Università di Sociologia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2004. Per andare dove? Parigi. Perché? Per lavoro e amore. Quale lavoro svolge attualmente? Documentarista e montatore. Dove? In Francia. Tornerai? Non credo. Fortemente voluta da Mussolini e dal segretario nazionale del Partito Fascista, Achille Starace, nasce sull'asse strategica del Brennero una nuova fabbrica di guerra. Viene costruita a Trento la fabbrica chimica Sloi, società lavorazioni organiche e inorganiche. Quello che state ascoltando è uno degli ultimi documentari girati da Luca Bergamaschi, Sloi, la fabbrica degli invisibili. Questo è il titolo. Di cosa parla, Luca? Sloi l'ho girato con un'altra regista, Katia Bernardi di Trento, e racconta diciamo la storia di una fabbrica a Trento, una ex fabbrica di piombo che apre negli anni 40 e chiude alla fine degli anni 70 e ha causato la morte di centinaia di persone. Il documentario è prodotto dall'UCT, da Sergio Bernardi e dalla provincia di Trento. Luca, iniziamo a parlare un po' di te, poi arriviamo anche al tuo lavoro, alla produzione dei documentari. Come arrivi in Francia? Ma partiamo prima dai tuoi studi. Io mi sono laureato in sociologia nel 2002. Prima della laurea sono partito in Erasmus, diciamo a Nantes, non a Parigi ma a Nantes, e a Nantes ho praticamente finito il mio ciclo di studi e poi sono tornato e mi sono laureato. La cosa particolare che mi è successa a Nantes è che ho capito cosa avrei voluto fare da grande, perché tra virgolette, perché guardando la televisione ho visto nella televisione francese che così erano i documentari sostanzialmente, quindi non era solo quello che si vedeva in Italia o quello che io conoscevo in Italia della televisione, ossia i documentari sugli animali, sulla flora e la fauna, ma anche diciamo le storie delle persone. Insomma, i documentari non sono solo super quark nel mondo. Esatto, esattamente. Poi tu torni e ti laurei. Io torno, mi laureo, faccio il servizio civile e poi riparto ancora con una borsa di studio Leonardo, dove faccio sempre per Parigi, stavolta per Parigi, dove faccio uno stage in una casa di produzione di documentari, di cinematografica, diciamo, a Parigi. Lo stage dura 6 mesi, nello stesso tempo poi ritorno perché considero che ho bisogno di fare delle formazioni, diciamo, perché con la laurea in sociologia poi mi sembrava un po' troppo leggera, e quindi faccio una formazione come montatore e come regista. E qui appunto, diciamo, inizi un po' il tuo percorso lavorativo in Francia, ma tu in qualche modo hai provato a fare la stessa cosa stando in Italia, cioè a lavorare come montatore o come regista di documentari, però basato qui in Italia. Sì, io ho fatto anche un documentario in Italia, era il primo, quindi diciamo non era proprio a livello professionale, nel senso cominciavo, diciamo, quindi l'ho fatto con un'associazione, con la provincia di Cremona, che è la mia città, sugli ultras di Cremona appunto, e poi ho fatto qualche stage a Bologna, però mi sono anche reso conto che documentare in Italia era difficilissimo riuscire a farne, insomma, perché il più grosso problema italiano, diciamo, che la televisione, appunto, mi riallaccio a quello che diceva prima, non diffonde o pochissimo, diciamo, documentari, e quindi anche tutte le produzioni italiane, ce ne sono tantissime buonissime che fanno documentari, sono costretti a chiedere finanziamenti alle televisioni straniere, estere, ad esempio la Francia. Ed è un vero peccato, Luca, forse anche perché il documentario, se lasciamo perdere magari quelli più a sfondo naturalistico, potrebbe essere anche un ottimo strumento di racconto, di inchiesta, se vogliamo. Ci sono molti esempi all'estero, no? Assolutamente, infatti è molto particolare perché secondo me il documentario è una forma di racconto, di storia, di grammatica che è molto utilizzato e diciamo riemerge quando un paese ha necessità di raccontare storie, quando in un paese ci sono delle problematiche forti. Il documentario riesce a raccontare, ha questa capacità, solo che purtroppo nel paese, diciamo anche povero economicamente, socialmente, culturalmente, questo documentario qua non si può fare. Quindi bisogna farlo all'estero. Che peccato. Per parlare dell'Italia. Che peccato, veramente. Luca, tra l'altro, ecco, prima di chiudere un po' la tua parentesi italiana, se vogliamo, in quello che scrivevi a giovanitalenti@radio24.it, tu dicevi, poi quando in Italia dicevo, ma io faccio il documentarista, la seconda domanda era, sì, ma vabbè, ma il tuo vero lavoro qual è vero? Sì, sì, assolutamente. Io, è normale. No, non lo so se no, a me capitava così anche a molti amici che fanno magari regia, che fanno montaggio, che lavorano insomma nel campo cinematografico, documentaristico, a me insomma capita, anche perché le persone non sono abituate, si pensa che diciamo sia una, non so, una passione, solo una passione, che resti una passione e quindi che non ti permetta di mangiare. In realtà in Francia sì, poi in Italia forse un po' meno. E Luca, riannodiamo proprio i fili della tua esperienza francese, perché sì, tu lavori per un periodo in Francia, ci racconterai anche come poi decidi di diventare freelance, cioè tu il documentarista in Francia lo puoi fare anche come lavoratore autonomo. Raccontaci un po'. Sì, io quando sono arrivato in Francia ho fatto uno stage, un piccolo stage di 2 o 3 mesi, questa è l'ultima volta che sono partito, quindi nel 2004, ho fatto uno stage di 2 o 3 mesi in una casa di produzione e poi ho cominciato diciamo a lavorare per questa casa di produzione, e in questa casa di produzione facevo il montatore e ho girato, anche ho realizzato anche un documentario per questa casa di produzione, per la televisione francese. Dopo 4 anni sostanzialmente ho deciso che il mio percorso per la casa di produzione era al termine e mi sono messo in proprio, diciamo freelance. Però qua il concetto di freelance è un po' diverso, almeno nel mondo dello spettacolo, perché si può lavorare da soli senza ad esempio aprire una partita IVA, perché si è considerati diciamo intermittenti dello spettacolo, quindi si ha una disoccupazione per 8 mesi se si arriva a lavorare almeno 3 mesi neanche continuati, diciamo su una, quindi diciamo lavorando ecco 3 mesi anche in modo discontinuativo, sì. Puoi avere poi 8 mesi di disoccupazione che ti permettono di insomma concentrarti sui tuoi nuovi progetti, su progetti futuri, in lavori in cantiere, e di poter in qualche modo costruire una carriera anche da lavoratore autonomo come regista di documentari, è corretto? Esattamente così, anche perché il documentario di creazione, diciamo come definito, che sono appunto i documentari che hanno una storia e soprattutto una scrittura, uno sviluppo dietro, sono molto lunghi e quindi senza diciamo un'ammortizzazione, senza una disoccupazione come fai qua, o lavori veramente tanto e ne sforni uno ogni 6 mesi, però comunque è molto difficile, oppure ti concentri, fai un po' di sviluppo, fai un po' di ricerca, poi rilavori magari come montatore o fai delle regie di film istituzionali, quindi riesci a mettere insieme le cose. Luca, com'è possibile? Ecco, la Francia in qualche modo investe sulla cultura, perché l'Italia non lo fa? Perché l'Italia non lo fa? Non aspetta a te a dirlo forse. Io so che lo faceva, io so che l'Italia, ad esempio in Francia quando parliamo con gli amici, anche con i colleghi di cinema, tutti ricordano il neorealismo, l'Italia, solo che io gli dico guardate che la situazione non è più così da un punto di vista documentaristico, l'Italia è chiusa perché perché la televisione è quella che è, se non vorrei fare la critica della televisione italiana, però siamo ai minimi, credo ai minimi storici, insomma, a livello di contenuti, a livello di... Basta guardare insomma la televisione francese, per chi ha un minimo di esperienza lo si capisce perfettamente, penso appunto non c'è nulla da aggiungere a questo, ma Luca, quali sono un po' i progetti su cui stai lavorando attualmente, stai filmando, cosa stai facendo? Allora, in questo momento sto lavorando su 2 progetti, un progetto che è già diciamo, 1 anno e mezzo che ci lavoro con un collega italiano, ed è una storia d'esilio, è una storia che si svolge